Ave Maria a tutti, carissimi ragazzi e ragazze, ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben ritrovati sulle frequenze della nostra amata radio. Chi vi parla è sempre Don Leonardo Maria Pompei, che si scusa anzitutto perché sta un po' convalescente, nel senso che ho avuto, come molti italiani, un bell'attacco di influenza, quindi mi perdonerete se purtroppo siamo in diretta, quindi non si può fare troppo, nascondere troppo, insomma, quindi può darsi che sentiate qualche strascico dell'influenza che interromperà purtroppo la nostra conversazione, quindi non mi vogliate scusare gentilmente per questo. Ecco, appunto. Allora, la volta scorsa abbiamo iniziato il discorso sul terzo comandamento, cercando un po' di delimitare, diciamo così, no? L'orizzonte di questo comandamento e di comprendere anzitutto l'importanza e il valore del giorno del Signore, il giorno della risurrezione, quindi l'importanza, vi ricordate, di guardare al cielo e di volgere quindi almeno per un giorno alla settimana lo sguardo a qualcosa di bello, insomma, a quello che ci attende. E non dico dimenticando la vita terrena, ma anche prendendo un pochino di respiro, ecco perché ci attende la vita beata del paradiso, che è sicuramente più bella, più piena e più avvincente di ciò che noi viviamo in questa valle di lacrime. Ecco, tutti sappiamo che obbligo fondamentale del terzo comandamento è l'osservanza del precetto domenicale festivo, cioè la Santa Madre Chiesa, trattandosi, come vi accennavo la volta scorsa, di un precetto positivo, ha, come dire, dato delle coordinate minime in base alle quali si può sostanzialmente ritenere assolto questo comandamento, che sono fondamentalmente due, che poi andremo un po' analizzando insieme. La prima, appunto, la partecipazione attiva, consapevole e fruttuosa alla Santa Messa, obbligatoria appunto nei giorni di domenica e nelle feste comandate, che spero che tutti sappiate, però forse sarà il caso poi di fare un po' di ripasso di catechismo, perché si sa mai che ci fossimo dimenticati qualcosa, ed anche, ecco, memore di quello che abbiamo visto la settimana scorsa, l'astenersi dai lavori che potremmo definire così non strettamente necessari. Ecco, quindi abbiamo visto la volta scorsa che Gesù ci ha liberato dalla schiavitù del sabato, quindi da quelle forme eccessive, quasi maniacali di osservanza che servono a schiavizzare l'uomo anziché fargli prendere un po' di respiro una volta a settimana. Oggi però capite tutti che si assiste esattamente all'eccesso opposto, come in tutte le cose, cioè che il giorno del Signore, la domenica, non esiste più. Cioè, anziché essere un giorno di riposo, diventa un giorno dell'affanno, diventa un giorno del weekend, diventa un giorno dello shopping, tutto aperto, tutti i negozi aperti, la gente non si riposa, le persone non possono stare con la famiglia e quindi si fanno una serie di assurde e inopportune esagerazioni sul fronte completamente opposto, cosa che non va bene. Quindi, anche se poi riprenderemo questo argomento, perché vorrei prima cominciare dalla Santa Messa, si può subito dire che i lavori la domenica non si fanno, salvo che ci sia una necessità grave, quindi che si tratta di attività pubblicamente utili o socialmente indispensabili, o comunque di lavori a cui si è costretti, tipo un dipendente che lavora in una fabbrica a ciclo continuo, a dover adempiere senza la possibilità di potervisi sottrarre. Fuori di questi casi, no, trattandosi soprattutto di lavori manuali, eccetera. Poi comunque riprenderemo questo discorso in particolare. Ora, la Santa Messa Domenicale, ecco. Voi pensate che il Santo Curato d'Ars, nelle sue prediche, piangeva, penso di averlo già detto qualche volta, perché diceva: ma guarda un po', la Chiesa ha dovuto fare come precetti di andare a messa tutte le domeniche e comunicarsi almeno una volta all'anno. Pensa un po' il cuore degli uomini come sta ridotto. Nel senso che se noi avessimo idea di cosa è la messa, non ci vorrebbe nessun terzo comandamento, non ci vorrebbe nessun precetto. Ecco, ma come diceva il buon padre Pio, noi correremmo tutti i giorni alla Santa Messa e anzi ci vorrebbero i carabinieri alle porte delle nostre chiese per tenere a bada la ressa di coloro che vorrebbero entrare. Ovviamente andando tutti, pensate se 60 milioni di italiani andassero a messa tutti i giorni, non ci sarebbe posto per poterli ospitare, ma così dovrebbe essere. E così speriamo tutti che finalmente un giorno, speriamo non troppo lontano, possa tornare ad essere. Questo perché, ragazzi? Perché la messa neanche, come dire, gli angeli del cielo capiscono bene che cosa sia. Se uno capisce bene che cos'è la messa e non si lascia, come dire, abbindolare o fuorviare da tante dottrine varie e peregrine, le chiama San Paolo nelle sue lettere, con dei termini che oggi sono diventati degli eufemismi, perché sarebbe meglio dirle a volte proprio balorde, ecco, e fuorvianti più che varie peregrine, e quindi comprendere bene. Ecco, che cos'è la messa per quanto è possibile a noi mortali, equivale a comprendere che lì c'è tutto, tutto, tutto, tutto. Pensate che anche recentemente ho avuto modo di dire che durante un esorcismo il diavolo ha detto queste testuali parole: se una persona va a messa tutti i giorni e si comunica e tutti i giorni recita il rosario intero, quindi con queste due armi, noi non possiamo fargli niente di particolarmente serio. Questo significa che né dal punto di vista dell'azione straordinaria, tipo mali malefici, purtroppo ragazzi questi molto diffusi e molto frequenti, né dal punto di vista dell'azione ordinaria, il demonio può fare niente di particolarmente grave, cioè tentazione e quindi vincere la persona inducendola al peccato mortale, attraverso queste due armi. Ora, mi sembra che negli scritti del Santo Curato d'Ars ancora si legge scritto che se tu chiedessi a un angelo che cos'è la messa, l'angelo ti risponderebbe: guarda, che diciamo così, in linea di massima io so che cos'è, ecco, so come si fa, anche se non la posso celebrare, perché gli angeli non celebrano la messa, e so a che serve, ma se tu mi dici: ma che cos'è la messa? Neanche noi, che pure gli angeli vedono a differenza di noi con i nostri occhi quello che accade sull'altare, ti saprei rispondere che cos'è. Perché la messa, diceva Padre Pio, è opera di Dio. Ed è opera talmente grande che supera qualunque altra opera che Dio abbia fatto nell'universo. Ecco, io ogni tanto quando parlo ai ragazzi del catechismo e non solo, gli dico: voi l'avete mai visto un miracolo? E loro rispondono tutti quanti: no! E io gli dico: io invece sì, anzi ne vedo almeno uno al giorno, a volte ne vedo due al giorno e qualche rara volta ne vedo addirittura tre. Ecco, perché? Perché celebro la Santa Messa, ma questo non è, cioè il fatto che io la celebro vuol dire che il miracolo si compie nelle mie mani e sotto i miei occhi, ma il fatto che uno ci va non fa niente, si compie sotto gli occhi, ma non nelle mani, però insomma l'oggetto è sempre lo stesso. Ora, che cos'è la Santa Messa? Io chiaramente vi parlerò della sana dottrina, non di quello che si dice in giro oggi. Ecco, sana dottrina puoi andare a vedere nel Catechismo della Chiesa Cattolica e soprattutto su questi argomenti nei testi assolutamente immortali di San Tommaso d'Aquino. Il grande San Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa, da cui la Chiesa ha attinto tutte le sue dottrine, poi diventate dogma nel Concilio di Trento, sia sul santo sacrificio della Messa che sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Quindi io a questo farò riferimento e di questo cominciamo a parlare. Ora, Che cos'è stata la redenzione dell'umanità? La redenzione dell'umanità, ragazzi, sappiamo tutti quanti, spero che siamo andati al catechismo, si è compiuta con il sacrificio di Gesù sulla croce. Come dice San Paolo, egli, morendo in croce, si è caricato, punendoli nella sua persona con i suoi indicibili dolori, dei peccati di tutta l'umanità. Ha versato al Padre con il suo sangue il prezzo del nostro riscatto. E poi, risorgendo dalla morte, ha ottenuto la nostra giustificazione e la grazia e la capacità di poter camminare, dice sempre San Paolo nelle sue lettere, in una vita nuova. Quindi, abbandonato il peccato attraverso la potenza del sacrificio della croce, possiamo vivere una vita completamente diversa, ad immagine della volontà di Dio, nell'osservanza delle sue leggi, nella pratica di tutte le virtù, anche nel grado eroico, come hanno fatto e vissuto nel corso della storia i santi. Quindi questo deve sempre essere da noi ricordato. Ora, cosa succede però? Il sacrificio di Gesù sulla croce ha oggettivamente, state attenti, acquistato la grazia salvifica per tutti gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo. Ora c'è un problema, no? C'è un problema di trasmissione. Questa grazia che già è nostra deve arrivare in contatto con ciascuno di noi, perché il sacrificio della croce, che ha un valore infinito, è stato però compiuto in un determinato momento storico. Lo sapete, no? Quindi, adesso qui gli storici non sono d'accordo, il 28 d.C., il 29 d.C., il 30 d.C., noi sappiamo che c'è stata qualche piccola sfaldatura, quindi Gesù è morto a 33 anni, però non è nato esattamente nell'anno zero, perché ci sono stati degli sbagli commessi da Dionigi il Piccolo nel computo del calendario occidentale. Adesso non è il caso di entrare in questa questione. Comunque, 28, 29, 30 non ci interessa, queste sono questioni secondarie per quanto riguarda il nostro problema. Comunque, l'8 e il 9 aprile di uno di questi anni, dicono gli storici, Gesù è morto in croce, d'accordo? Ma è morto in croce in Palestina, quindi in un luogo determinato e in un momento storico determinato. Ora, io che sono Don Leonardo, sono nato nel 1971 e vivo in Italia, non in Palestina, quasi 2000 anni dopo. Come faccio a entrare in contatto con questo sacrificio della croce? Allora, la fantasia divina e l'amore divino di Gesù si è inventato per sopperire a questa difficoltà la messa. E che cosa ha fatto? Compiendo un miracolo che poi cercheremo di vederlo insieme, più grande di quello della creazione del mondo, ha stabilito che attraverso la ripetizione delle parole che lui ha pronunciato nell'ultima cena, parole dal significato forte, ho detto questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, pronunciate dal ministro sugli elementi adatti, quindi sul pane azimo e sul vino di uva, si producesse la conversione totale della sostanza del pane e del vino nel suo vero corpo e nel suo vero sangue, che vedete sull'altare, attraverso le specie sacramentali, si presentano divisi l'uno dall'altro, d'accordo? Perché il corpo di Cristo è nell'ostia, il sangue di Cristo è nel calice. Cosa significa questo? Significa che sull'altare, attraverso dei veri sacramenti, non dei simboli, perché lì non c'è il simbolo del corpo di Cristo o il simbolo del sangue di Cristo, lì c'è il vero corpo e il vero sangue di Cristo. Ciò che accadde 2000 anni fa, cioè che il sangue di Cristo usciva dal suo corpo e si separava in maniera violenta a causa delle ferite infertegli dai colpi della flagellazione, dall'incoronazione di spine e dai chiodi della croce, si attualizza e si realizza veramente su ogni altare, dove quelle parole vengono ripetute e pronunciate. E che cosa vuol dire? Vuol dire che coloro che sono presenti ricevono i frutti applicati dell'unico sacrificio della croce e chi in persona Cristi compie questo questo sacrificio, può disporne per poterlo applicare, secondo un'intenzione particolare, per i vivi e per i defunti. Allora, capite che cos'è la messa? In questo senso, se uno vi dicesse che cos'è la messa, io quando vado a messa salgo sul Monte Calvario, ma non metaforicamente, veramente. Se voi vedete come erano costruite le chiese quando ci credevano, a differenza di oggi, che costruiscono dei mostri orribili e vomitevoli di cemento armato che servono soltanto a far perdere la fede e a far gongolare il demonio, chiusa parentesi, vedrete che le chiese erano costruite in un certo modo, cioè gli altari e i presbiteri erano sempre sopraelevati. Io ho visto delle chiese bellissime, per esempio ad Ascoli Piceno, mi rimase impressa una, dove è impressionante, c'era un altare altissimo, c'erano 7 gradini e l'altare sopra questi 7 gradini, quindi ciò che nella messa realmente succede, cioè una contemporaneità con il sacrificio del Golgota, per aiutare le persone presenti a ricordarselo, veniva visibilizzato da questa altezza dell'altare, capite? Sopra elevatezza. Quindi il sacerdote sale questi gradini, così come Gesù sale carico della croce sul Calvario e immola la vittima, il corpo e il sangue di Cristo, per la salvezza del mondo. Quindi purtroppo oggi, con la scusa dell'arte moderna, una montagna di splendidi segni che c'erano nella architettura anche tradizionale, sono andati insieme a tante altre cose, ahimè alcune anche molto più importanti dei miei segni, come si dice dalle nostre parti a Roma, a farsi benedire, purtroppo. Quindi, allora, io vi dico, se uno ci credesse veramente che quando va a messa sta ai piedi della croce dinanzi a Gesù che si immola per lui con un amore infinito e in quel momento dal suo cuore santissimo fuoriescono autotreni, fiumi, non so, valanghe, cascate di grazie indicibili per lui e per tutte le persone per cui durante la messa ogni singolo fedele prega, che cosa una persona ragionevole dovrebbe fare? Ditemelo voi. Servirebbe il terzo comandamento? Io, con tutto il rispetto, sto scherzando, no? Per nostro Signore, se tutti avessero questo grande senno, forse si potrebbe quasi quasi pensare ad una specie di abrogazione. Ecco, perché tanto non serve, perché, come diceva il buon Padre Pio, San Pio, ci vorrebbero i carabinieri tutti i giorni davanti alle chiese. Quindi questa è la Santa Messa. Quando la Santa Messa poi viene coronata dalla Santa Comunione, che sono due gesti, state attenti a tutte le scemenze che dicono, sono due gesti distinti e non indispensabili l'uno all'altro. Adesso ne parlerò subito. Comunque, quando la Santa Messa viene coronata dalla Santa Comunione, si aggiunge a questo già infinito bene oggettivo della partecipazione ad essa la forma massima, come dire, di partecipazione della divina grazia e di intimità con Gesù che ci è concessa su questa terra, cioè diventare con lui una carne sola, uno spirito solo, un'anima sola, un sangue solo, un cuor solo, un amore immenso solo. Ecco, io vi auguro, però per questo dovete prepararvi bene su tutti i punti di vista, di poter tutti fare spesso e bene, e magari sempre, la Santa Comunione, perché non c'è nulla in questo mondo che possiamo avere di più per essere uniti con il nostro Redentore. Vi dicevo che Santa Messa e Santa Comunione sono due cose certamente non separate, perché ordinariamente la comunione va presa durante la messa e l'ideale sarebbe che la Santa Messa fosse coronata dalla Santa Comunione. Uso dei termini pesando molto bene ogni singola parola. Ho detto ordinariamente La comunione va presa durante la messa, vuol dire che si può prendere anche fuori della messa, così come l'ideale sarebbe coronare la messa con la Santa Comunione, ma non ho detto che è indispensabile. Ecco, questo perché sentirete oggi dire un sacco di scemenze, perdonatemi il termine, anche purtroppo da qualche pulpito le ho sentite io, anche quando ero giovane o seminarista anche. Del tipo, la messa è un invito a cena. Ti pare che quando ti invitano a cena tu non mangi? Capite? Quindi, frasi di questo genere, a volte pronunciate anche da personaggi eccellenti, a grande effetto, che hanno grande chiaramente successo nella nostra sciocca cultura contemporanea, abituata alle grandi frasi a effetto. Che succede? Fiumi di gente a fare la comunione e neanche il 10% confessato, neanche il 5% di quel 10% in grazia di Dio. Così come dice San Paolo, la comunione, ma questo ne abbiamo già parlato nel primo comandamento, diventa la tua condanna a morte. Quindi l'ideale sarebbe questo, ma se non stai in condizione, e attenzione, non fate mai, mai l'errore, e io vi parlo con esperienza da confessore, di dire intanto faccio la comunione e poi mi confesso. No, no, prima ti confessi e poi fai la comunione. Ma è il funerale di mia madre, non fa niente. Tua madre è contenta che ti fai la comunione se stai in grazia di Dio, se è salva, d'accordo? Perché è contenta che ti fai la comunione senza stare in grazia di Dio, soltanto se sta all'inferno, d'accordo? E quella contentezza non bisogna dargliela ai dannati di fare un peccato così grave. Spero di essermi spiegato anche se sono in radio. Scherza, la comunione si può anche fare al di fuori della messa. Il caso classico, io porto ogni primo venerdì del mese, io, non i ministri straordinari, ecco, la comunione ai malati, io, d'accordo? Io, Don Leonardo, come il diritto canonico obbliga il parroco a fare e non a delegare incautamente. Quindi è evidente quando porto la comunione, mica celebro la messa presso i malati. Voi sapete anche un'altra cosa, così diramo anche alcuni. Ecco, a volte mi capita che, per esempio, ci sono delle persone tanto buone e tanto devote o dei figli spirituali che, per esempio, hanno proprio oggettivamente degli orari di lavoro a volte impossibili, nel senso che non possono andare a messa né la mattina e nemmeno il pomeriggio in alcune giornate. E quindi, che facciamo? Mi è capitato qualche volta di dover dire a qualcuno, dice, guarda, tu a che ora ti liberi? Alle 7:30, io sono ancora in chiesa, vieni, ti fai un momento di preparazione e poi ti do la comunione e fuori della messa come si dà ai malati. Nessuno si deve scandalizzare di questo, eh? Si può fare tranquillamente. Posso fare un altro esempio, perché ogni tanto mi capitano queste cose, no? E vado a messa tutti i giorni, d'accordo? Quindi sto parlando di giorni feriali, non di giorni festivi. E mi capita di arrivare a messa tardi, non perché l'ho fatta apposta, ma ci sono stati dei problemi per cui ho fatto tardi e magari arrivo alla messa che è già arrivata all'offertorio o addirittura anche al Sanctus. Cosa faccio? La faccio la comunione oppure no? Ecco, alcuni dopo dicono a Don Leonardo che è estremista e alcuni modernisti attuali si stracciano le vesti, dicono, no, la comunione, la messa devi sentirla dall'inizio alla fine. Questo non è vero, questo qui. Allora, bisogna fare attenzione alla messa domenicale, che è un altro discorso, ma una messa feriale, se tu arrivi tardi, non per colpa tua, anche se dovesse disgraziatissimamente succedere che arrivi tardi per una piccola negligenza, non ti negare di andare a fare la comunione. Perché potresti fare la comunione se stai in grazia di Dio anche senza averci partecipato alla messa. Non so se riesco a rendere chiara l'idea. Quindi non ci sta assolutamente nessun problema. È vero un'altra cosa. La Chiesa dice che se uno vuole fare la seconda comunione, cosa che non deve essere una regola quotidiana, per fare la seconda deve ascoltare tutta la messa dall'inizio alla fine. Ma è la seconda. Non la prima. Capite? Capite ragazzi? Quindi speriamo di essere stato chiaro su questi punti, perché mi capita non poche volte, e l'ho visto anche qualche volta, che magari qualcuno arriva molto tardi alla Santa Messa e magari ne si sente in coscienza, per carità, segno di coscienza delicata, questo non è certamente un difetto, cioè, ma non mi vado a fare la comunione che ho fatto tardi alla Messa, però così facendo uno si va a privare, come dire, inutilmente, quindi senza che ci sia un grave motivo, di un grandissimo beneficio spirituale come fare la Santa Comunione. Per cui la Santa Comunione bisogna tenere presente che non bisogna mai farla quando non si è in condizione di farla, ma non bisogna mai privarsene quando si è in condizione di poterla ricevere, perché questo è un beneficio immenso ed enorme che noi facciamo alla nostra anima. Facciamo ora che sono le 17 una piccola pausa, recitando l'Ave Maria, ricordando sempre la Madonna della Medaglia Miracolosa che è apparsa a quest'ora, e poi riprendiamo tranquillamente continuando il nostro discorso. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecco, abbiamo quindi focalizzato alcuni aspetti della Santa Messa e della Santa Comunione. Ora vorrei un attimo chiarire un pochino di questioni riguardo ad altre sciocchezzuole che ogni tanto sento dire in giro. Io vi faccio innanzitutto delle domande, così mentre mi ascoltate, sia in diretta sia chi poi ascolterà questa trasmissione in differita. Intanto pensate, no? La prima domanda: la messa è sempre uguale? Cioè, nel senso che qualunque messa uno ascolta, da chiunque sia celebrata, è esattamente la stessa cosa? Cioè, la messa è sempre messa dovunque e comunque la si celebri? Punto interrogativo. Oppure, fermo restando, come dire, un minimo comune denominatore, non è esattamente la stessa cosa una messa rispetto a un'altra messa? Punto interrogativo. Ecco, ovviamente per rispondere a questa domanda vi faccio subito un esempio provocazione. Voi sapete che quando Padre Pio era vivo, la sua messa, che durava di media circa 3 ore, raccoglieva una, come dire, partecipazione assolutamente straordinaria. Gente che tutte le mattine alle 2 o all'1 di notte, al freddo gelido, stava infine in attesa che si aprissero le porte della chiesa per cercare non soltanto di prendere i primi posti, ma di entrare nella piccola chiesetta che c'era a San Giovanni Rotondo. Cioè, erano, come dire, i testimoni oculari. Io ne ho uno ospite a casa mia in questi giorni. A proposito, vi raccomando di ascoltarne le catechesi che andranno in onda in streaming sul sito della parrocchia questa sera alle 21 e giovedì sera alle 21. È Claudio Nalin, figlio spirituale di San Pio da Pietrelcina, noto agli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, che parlerà proprio del pensiero di San Pio. Io anche, che non sto tanto bene, mi toccherà seguirlo pur stando a 20 metri dalla casa canonica in diretta streaming. Quindi, come mai a questa messa c'era tutta questa gente, e alla messa che celebrava, non mi invento il nome, Fra Nicolino, mezz'ora dopo Padre Pio, c'erano 15 persone? Domanda. Idolatria della persona? Padre Pio latria? O forse c'era qualcos'altro? Allora, vi invito, ragazzi e ragazze carissime, a seguirmi. Perché il punto che vi sto dicendo oggi è di un'importanza capitale. Bisogna comprenderlo bene e quindi poi agire e regolarsi di conseguenza. Allora, per comprendere questo principio bisogna attingere alla dottrina dell'immortale San Tommaso d'Aquino Sacramentaria, che è insuperata e, a mio modestissimo parere, insuperabile. Ora, San Tommaso insegna che per ogni sacramento si devono distinguere tre, scusate, tre aspetti. Le condizioni della sua validità, quindi a quali condizioni un sacramento è valido. Secondo, le condizioni della sua liceità, cioè quando un sacramento viene celebrato lecitamente, cioè senza commettere peccati. Terzo, le condizioni della sua fruttuosità, cioè quando un sacramento validamente, lecitamente celebrato, quando e quanto frutto produce in chi lo celebra e in chi lo riceve. Sono tre aspetti completamente distinti, ragazzi. La domanda di prima, la messa è sempre uguale? Chiaramente la risposta non è sì o no, è una risposta articolata. Da un punto di vista di validità, in linea di massima, si può affermare che dovunque io ascolto una messa celebrata da un prete cattolico che abbia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, che non celebri per scherzo e che pronunci le formule della consacrazione, qualunque sia il contorno e le circostanze soggettive, quella messa è valida, perché le condizioni di validità di un sacramento, che sono quelle proprio strettamente canoniche perché un sacramento ci sia, e che sono quelle dettate da nostro Signore Gesù Cristo, sono quelle di validità, materia valida, forma valida e ministro adatto. Ora, perché una messa sia valida ci vuole che sia consacrato il pane azimo, non i cioccolatini o i biscotti o le fette biscottate, il vino, quindi non la Coca-Cola oppure la birra, da un prete regolarmente ordinato, quindi non da un diacono o da un laico o in giù rispetto a, né dalle donne, che abbia l'intenzione di fare sul serio, quindi di non celebrare la messa per scherzo, facendo ciò che la Chiesa intende fare con quella cerimonia. Basta. Quindi le condizioni soggettive del sacerdote, le condizioni soggettive di coloro che partecipano e anche le condizioni ambientali della liturgia, quindi la celebro nella cattedrale di Chartres, oppure la celebro nel rifugio sperduto in un campo scuola con i ragazzi, oppure in spiaggia, per dirvi, sono totalmente ininfluenti sulla validità del sacramento, totalmente. Quindi, se celebra la messa Giuda, e Giuda ha l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa e usa il pane azimo e il vino consacrati, quella messa è valida. D'accordo? Se celebra la messa il più grande criminale, perdonatemi, o un prete pedofilo, dato che oggi non si parla di altro, quella messa è valida. Quindi chi partecipa a quella messa assiste realmente alla rinnovazione del sacrificio di Cristo, ne beneficia dei frutti e se si fa la comunione si nutre del vero corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Spero di essere stato chiaro. Ecco, però attenti, la stragrande maggioranza dei chiacchieroni si ferma a questo aspetto, dice: "Ah, quindi la messa è sempre messa, fa niente, quindi tutti quelli che andavano a fare la fila da Padre Pio sono una banda di idolatri, perché anziché concentrarsi sul nostro Signore, che tanto dovunque lo vai è sempre lo stesso, no? Che non è sempre lo stesso nostro Signore? I tabernacoli non sono tutti uguali? I preti non sono tutti uguali?" Ecco, quindi se tu ti attacchi a qualcuno sei un idolatra e non sei attento al Signore, ma sei attento alla persona, c'è culto della personalità, giusto? Sbagliato. Ecco, perché la storia della Chiesa ci attesta esattamente il contrario. Il nostro Signore non ha mai detto a Padre Pio, mai, caccia la gente che viene alla tua messa perché fanno culto della tua personalità. Questo che a me risulti non gliel'ha mai detto, anzi, era ben contento che le folle assiepassero il suo altare. Quindi il discorso sulla messa non può, ovviamente, fermarsi agli aspetti pur principali e pur fondamentali della validità giuridica che il nostro Signore ha voluto che fosse così, perché vi immaginate se io andassi alla messa e c'ho davanti un prete che mi fa una brutta impressione, che dico: "Ma questo sarà santo o sarà un peccatore?" Immaginate se la validità della messa dipendesse dal fatto che quello sta in grazia di Dio oppure no. Sarebbe impossibile, cioè tu vai a messa col patemadanimo perché non sai se chi l'ha celebrata sta in grazia di Dio oppure no, e quindi se hai fatto una pagliacciata e ti sei mangiato un pezzo di pane, ti sei inginocchiato un pezzo di pane, oppure se hai veramente assistito alla Santa Messa. Quindi capite, in questo senso il Signore, attraverso la sua azione, lo Spirito Santo, ha blindato almeno le condizioni minime. Quindi state tranquilli, certamente se c'è un prete che si spaccia come tale, cioè se va un laico vestito da prete e celebra la messa, lì purtroppo c'è niente da fare. Certamente poi è dottrina comune che la grazia supplisce all'ignoranza dei fedeli che hanno assistito a quella messa inesistente, dandogli le stesse grazie che avrebbero avuto se la messa fosse stata lecitamente celebrata. Ecco, però, insomma, questo è un caso, diciamo, più che altro di scuola, ma difficilmente succede. Passiamo al secondo gradino. Ci sono le condizioni di liceità per la celebrazione o per la ricezione del sacramento. Allora, un prete che celebra la messa non stando in grazia di Dio, supponiamo che abbia fatto un peccato mortale. Non li fanno i preti queste cose, però supponiamo che abbia commesso un atto impuro, anche di quelli che fanno gli adolescenti perché fortemente tentato, un prete giovanotto alle prime armi. Spero che i preti non facciano queste cose, però facciamo un esempio di scuola. Quello se celebra la messa il giorno dopo, non lo può fare se non si è confessato, non lo deve fare, perché deve di corsa andarsi a far assolvere perché è un peccato mortale. Allora, se lui celebra la messa il giorno dopo, la messa è valida? La messa è valida sì, ma quel sacerdote ha commesso un peccato mortale gravissimo, perché ha fatto il peccato più grave che un prete possa fare. Il peccato più grave che un laico possa fare è farsi la comunione senza essere in grazia di Dio. Se è prete, è celebrare la messa, all'interno della quale un prete si deve comunicare per forza, perché la comunione è obbligatoria soltanto per lui, senza essere in grazia di Dio. Quindi quella messa, pur essendo valida, non avrebbe dovuto essere celebrata. D'accordo? Diversa è la condizione dei fedeli, perché un fedele che non sta in grazia di Dio assiste validamente alla Santa Messa e anche lecitamente. Questo che la Chiesa distingue messa e comunione. Dovrà semplicemente astenersi, e guai a lui se non lo fa, dall'accostarsi alla Santa Comunione. Perché se sta accosti alla comunione stando in disgrazia di Dio, chi ricevi? Gesù o un pezzo di pane? Purtroppo ricevi Gesù, perché che quello sia Gesù non dipende da te, ma dipende dall'azione che ha compiuto il sacerdote. Però per te quel cibo spirituale, quel farmaco di immortalità, si tramuta in veleno a causa della tua anima indisposta a riceverla. E come dice San Paolo, chi mangia indegnamente, si accosta indegnamente al corpo del Signore, mangia e beve la sua condanna. Quindi Dio ci scampi da una cosa di questo genere. D'accordo? Scusate, mi è arrivata una domanda tramite Facebook. Ve la leggo. Don Leonardo, una domanda in diretta: come facciamo a sapere se il sacerdote celebra la Santa Messa in piena coscienza del sacrificio che sta compiendo? Alle volte il sacerdote, senza voler ovviamente giudicare, ma solo per sapere come si deve comportare, che scherza e ridono tutta la celebrazione, compreso il momento della consacrazione. Questa è una disposizione soggettiva del prete. Un prete che fa così fa un peccato mortale, perché celebra la Messa in maniera sciatta e scellerata. Cosa che un prete non deve fare, perché un prete la messa deve essere celebrata in maniera seria. Però, purché pronunci le formule della consacrazione e non abbia intenzione di scherzare, ma questo non c'è, cioè, nessun prete fa cose di questo genere, quindi non bisogna, cioè, bisogna considerare che normalmente questa cosa c'è, perché un prete non è, insomma, così sciocco, queste cose le ha studiate, le sa, quindi sa che andrebbe indurre in tentazione. Se per assurdo dovesse succedere un fatto del genere, come ho già accennato prima, la grazia di Dio supplisce all'inadeguatezza. Quindi, anche se fosse vero un caso limite del genere in cui il sacerdote consacra non scherzando, perché un conto che io mentre consacro rido, ma non ho intenzione di scherzare per consacrare, ma rido perché magari nel momento della consacrazione ho la testa per aria e mi viene in mente una cosa che mi fa ridere. Questo che significa? Non significa niente. Basta che io ho intenzione di consacrare il pane e il vino. che ordinariamente questa va presunta, non c'è bisogno di esprimerla. Quindi è un caso limite, ma non bisogna. Ecco. Adesso però passiamo al terzo livello. È il caso, secondo voi, di partecipare ad una messa dove, come mi dice questa ragazza che si chiama Valentina, così la conosciate, in diretta tramite Facebook, è il caso di partecipare a una santa messa dove c'è un prete, rileggo, che scherza e ride per tutta la celebrazione, compreso il momento della celebrazione? Ecco, vediamo un attimo, perché c'è anche questa dimensione. Allora, sono tutte uguali le sante messe? Torniamo alla domanda di base. No, sotto questo punto di vista. Perché un conto è la messa che celebra Giuda, un conto è la messa che celebra San Pietro. Non è esattamente la stessa cosa. Allora, la forma della liturgia, diciamo la struttura della liturgia è sempre la stessa. Le parole della consacrazione sono sempre le stesse, il rito è sempre lo stesso, ma uno, Giuda, non celebra lecitamente e tre, Giuda non celebra fruttuosamente, perché a quella messa lì, celebrata in maniera scellerata, allora, che dobbiamo immaginare? Il sacrificio di Cristo oggettivamente si rinnova e viene offerto al Padre, ma per l'indegnità del ministro e per la sciatteria con cui viene celebrata, dice San Tommaso, quella messa serve più a farlo irridare il Padre Eterno che non a farcelo ingraziare, per cui i frutti, d'accordo, che quella messa produce sono inferiori rispetto ai frutti prodotti dalla messa celebrata da un sacerdote degno e devoto. Questo non lo dice Don Leonardo, lo dice San Tommaso d'Aquino. Quindi, allora, cosa vuol dire? Nell'attuale situazione di giungla assoluta liturgica, andate su YouTube a vedere cosa si vede in giro, eh. Io ho visto cardinali, e soltanto la carità che mi sono confessato stamattina mi proibisce di fare il nome, mascherati da carnevale o da Halloween, celebrare le messe di carnevale e di Halloween. Cardinali di Santa Romana Chiesa, questi andranno al conclave. Capito? Ho visto messe che vengono dal Brasile celebrate a carnevale con preti mascherati da pagliacci e palloncini che giravano. Ho visto messe celebrate con donne in veli che facevano strane danze propiziatorie davanti all'altare con i vescovi seduti che se le stavano a guardare. Una di queste fa anche la suora e va in giro a fare queste cose per le parrocchie. Una suora ex ballerina che serve il Signore con questa cosa qua. Oggi si vede di tutto, insomma, no? Allora, voi capite che c'è una bella differenza, oppure messe dove si schitarra e si sbonga tutto spiano e ci si sgola, che è tutta una, come dire, un grido e un canto ininterrotto dall'inizio alla fine, battiti di mani, stamburamenti, bassi, chitarre elettriche, messe rock, batterie, e applausi durante la celebrazione. E microfono dato ai fedeli che vengono fatti intervenire, di tutto oggi si vede in giro. Allora, queste liturgie a nostro Signore, e ve lo dice un povero scemo sulla base di quello che insegna San Tommaso, lo fanno irritare. D'accordo? Per cui, se si può, è bene evitare di partecipare a queste celebrazioni. O a celebrazioni, vedete su YouTube che c'è qualche prete che come canto finale va a fare bella ciao. Ma io penso che la pazienza di nostro Signore è veramente grande, è proprio grande. Io sinceramente tante volte dico, uno dei motivi perché Dio è ineffabile e inconoscibile è questa pazienza che c'ha. Io purtroppo, pregate per me, ce n'ho tanta poco, c'ho un cattivissimo carattere, però veramente dentro a certe cose veramente troppo. Ma capite perché il povero Papa Benedetto XVI qualche tempo fa diceva e metteva in guardia dagli abusi liturgici che sono ormai giunti al limite del sopportabile. Un'espressione del genere pronunciata dal sobrio linguaggio ecclesiale di un pontefice dei nostri giorni, perché una volta anche i pontefici ci andavano giù abbastanza pesanti, oggi non si usa più, la dice lunga sullo stato a cui ci siamo ridotti. Allora, queste messe semplicemente non ci si va. Ma non è che non ci si va per niente, si va altrove se uno può, senza starsi a fare questioni o cose di questo genere. Ma questa è la mia parrocchia. Allora, il bene supremo della Chiesa, questo sappiatelo, è la salvezza delle anime. Il bene supremo tuo, figlio mio, figlia mia che mi stai ascoltando, è la salvezza della tua anima. Quindi tu non devi andare in posti dove, anziché trarre profitto spirituale per la tua anima, ne trai danno. Così come ci stanno, cioè, l'arte di celebrare la Santa Messa vuol dire fare una liturgia, e questo si può fare, ragazzi, ve l'ho detto tante volte, anche con la Messa nuova. Certamente la Messa antica, a me tanto cara, ha una struttura rigidissima, dei momenti di silenzio imposti che creano per forza di cose, indipendentemente dalle disposizioni soggettive del celebrante, e sotto questo aspetto meno male, le condizioni per un clima di raccoglimento e, diciamo, un clima mistico. Ecco, nella Messa Nuova, come notava Papa Benedetto XVI, allora Cardinale Ratzinger, nel libro che consiglio Introduzione allo Spirito della Divina Liturgia, la nuova Messa c'è questo grande problema, che è clericocentrata, cioè col fatto che l'altare sta rivolto verso la gente e che c'è questa attenzione alla dimensione comunitaria e che il prete parla ad alta voce, parla in lingua volgare, la sua personalità influisce enormemente, enormemente sulla celebrazione. Quella ragazza che mi ha fatto questa domanda, perché mi ha fatto questa domanda? Perché vede in faccia il prete, dice ride al momento della consacrazione, ma tu non lo vedresti se quello fosse rivolto verso il tabernacolo, capite? Quindi, cioè, chi sta al centro? Sta mica Gesù Cristo al centro, ci sta il prete. Allora, io ve lo dico perché la celebro. Allora, lo sforzo del prete della nuova messa è che dipende da lui, purtroppo, fare in modo che al centro della messa ci resti Gesù Cristo. Quindi, attraverso la sua, vi invito ad ascoltare un po' di catechesi, stanno anche sul mio canale YouTube di Don Nicola Books, Ars Celebrandi, arte di ben celebrare, portare i fedeli alla preghiera, all'adorazione, alla contemplazione, farli volgere su Gesù Cristo, perché purtroppo l'attenzione immediata oggi non va su di lui, anche attraverso i segni. Perché se ci guardiamo in faccia e non metti neanche una croce sull'altare, io la metto sempre, ma la mettevo da prima, perdonatemi la superbia, che lo facesse Benedetto XVI, così come in parrocchia mia, in ginocchiatoio c'era prima che lo mettesse Papa Benedetto XVI nelle sue celebrazioni, perché mi sembrava il minimo, senza obbligare nessuno. Ma io non accetto che celebro la Santa Messa guardandoti in faccia a te, almeno tra me e voi ci sia la croce, dal momento che sull'altare non ci sta lo show di Don Leonardo, ci sta il sacrificio della croce che si compie e che si attualizza. E purtroppo, dal momento che tu vedi Don Leonardo, ci deve essere qualche altro segno che ti fa pensare, ma forse oltre a Don Leonardo sull'altare c'è qualcun altro. Metteci una croce almeno. Dove le vedete voi tutte queste croci sull'altare? Avete visto l'esempio che dà il Papa? Io in tutte le parrocchie che vado vedo sempre quelle due candele che non si mettono così appiccicate, con un po' di fiori dall'altro lato dell'altare, e tutto quanto aperto, e così ci guardiamo in faccia. Certo, questo qui non aiuta una messa raccolta e celebrata. Che canti fai fare durante la messa? Che canti fai fare? Che strumenti fai suonare? È molto diverso. Io, per esempio, ho assolutamente proibito tamburelli, bonghi, battiti di mano e cose di questo genere. Permetto, perché non ho potuto fare diversamente, perché non ho trovato altro qui, che si suonino le chitarre, ma arpeggiando. E con una serie di repertori di canti che ho dato io, cioè non con Osanna e, perdonatemi se dico qualcosa, o che altre sbualcate del genere, insomma, con dei canti che, pur non essendo certamente a livello del canto gregoriano, però se eseguiti in un certo modo possono aiutare la preghiera. Per grazia di Dio quest'anno collabora con me un organista professionale, per cui almeno una messa domenicale suona l'organo e basta. e si eseguono canti in un certo modo. Ringraziamo il Signore, ma questa è una grazia che è arrivata quest'anno. Prima qui c'era il deserto assoluto, c'era il deserto del Sahara. E vi posso assicurare che il coro che è stato da queste parti, rispetto all'America che c'è in giro, è oro colato. Rispetto a quello che si vede, a tutte le cose che sento quando gironzolo raramente in giro per qualche celebrazione, magari di vario genere, in qualche altra parrocchia dove mi viene la pelle d'oca. Ora, io posso dire che conosco persone, e non sto parlando di me, perché sono l'ultimo dei poveri peccatori del nord Italia, che ogni sabato pomeriggio si fanno oltre 100 km di macchina e sono sposati con figli. Semplicemente per partire da casa propria, andare nella parrocchia dove sta il sacerdote di cui loro hanno fiducia, che è il padre spirituale, per confessarsi e per sentirsi una messa come Dio comanda, e poi ritornano a casa. Certo, la messa quotidiana si accontentano di quello che trovano, perché adesso passano 100 km al giorno, però attenzione a stigmatizzare, ecco, quello è un idolatra, quello è un pazzo scatenato, è un esaurito, perché mo che c'entra, 100 km, spreca un sacco di soldi, spreca un sacco di tempo, la messa è sempre messa. No, cioè sì e no, se avete capito bene quello che sto dicendo, perché se la messa viene celebrata da un ministro normale, non dico santo, normale e devoto, Dio guarda quella messa con occhio compiacente, e le grazie e i frutti che manda a chi la celebra e a chi vi partecipa sono più copiosi. Questo lo scrive, vi ripeto, San Tommaso. Andate a prendere la Summa Teologia, leggetela e prendetela con lui, non con me. Io vi ho detto tante volte, l'ho detto sempre ai miei parrocchiani, lo ripeto anche in radio, che quando parlo in pubblico non parlo di cose e di idee mie, perché il mondo delle idee mie ne può fare tranquillamente a meno, perché non servono assolutamente a nulla. Io non faccio altro che ripetere ciò che ho imparato dal Magistero della Chiesa, dai dottori della Chiesa e dai santi. Quando faccio qualche fuori programma, avverto sempre che un fuori programma farina del mio sacco, per cui se uno vuole tranquillamente prendere e buttarlo al secchio, non fa una lira di danno e può farlo tranquillamente. Le cose che vi ho detto però no, perché non sono cose mie. Come diceva Gesù, ripeto anch'io, Gesù a chi lo accusava dice la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Così le cose che vi ho detto oggi e sempre non sono mie, ma di coloro che mi hanno mandato, perché ci mette in mezzo anche la Chiesa, il vescovo che mi ha ordinato, eccetera, eccetera. E tutti gli insegni e autorevoli testimoni che mi hanno insegnato queste cose. Quindi attenzione, attenzione. Cioè, San Tommaso dice: noi dobbiamo avere somma cura della nostra anima. Per cui si può cambiare parrocchia, bisogna vedere per quali motivazioni cambi parrocchia. Perché se cambi parrocchia perché il parroco non ti sta simpatico, è una stupidaggine. Perché un parroco non deve stare simpatico, un parroco deve darti i sacramenti in maniera degna e santa. E deve annunciarti la parola di Dio. È troppo severo. Fa niente. Non fa niente. Non fa niente. E è troppo diretto. Non fa niente. Ringrazia Dio se è diretto e ti annuncia la parola di Dio. Non fa, queste sono cose completamente secondarie. Se tu invece cambi di Dio, cambi parrocchia, scusate, perché quel prete spara un sacco di stupidaggini quando predica. E io ci avrei bisogno di essere un pochino, un minimo formato e di sentirmi qualcosa che faccia del bene alla mia anima, ma non solo che lo puoi fare, lo devi fare. Perché chi te lo obbliga ad andarti a riempire la testa di una montagna di sciocchezze e di stupidaggini? Dove sta quest'obbligo? Dove sta? Non bisogna andare a messa nella propria parrocchia. Dove sta scritto questo? Dove sta scritto? Si ha diritto alla celebrazione dei sacramenti nella propria parrocchia. State attenti, vi parlo da parroco. Cioè, se tu abiti nella parrocchia di San Francesco e c'è un figlio da battezzare e vai dal parroco a dirmi battezza il mio figlio, il parroco te lo deve battezzare, non può dirti no, non te lo battezzo, vai da un'altra parte. Ma se tu vai dal parroco e gli dici io voglio battezzare il mio figlio dall'altra parte, certo devi chiedere nulla osta per una forma di rispetto. Io non ho mai negato nulla osta a nessuno, perché è diritto fare battezzare i figli qui, ma non è affatto un dovere. Se uno vuole andare altrove, ma vada tranquillamente che Dio lo benedica. Se il parroco che ti deve battezzare ha reputato valide le motivazioni per cui vai lì, che Dio ti accompagni. Qual è il problema? Vi ripeto, bisogna vedere le motivazioni. Quindi, chi ha qualche dubbio, la parola al padre spirituale. Fatto subito, capite? Oggi abbiamo le macchine, ragazzi. Io quando sono andato qualche volta a Milano, prendi il Frecciarossa da Roma con 3 ore, ma neanche con 3 ore, con 2 ore e 3 quarti stai a Milano. Cioè, non abbiamo più, come dire, i vincoli che c'erano un tempo. Ci stanno le macchine, no? Cioè, mentre una volta quando uno andava a piedi o a cavallo, che fai? Cambi, che vai a messa in un'altra parrocchia? Veramente ci vogliono 4 ore andare e 4 ore a tornare. Adesso che ti ci può volere? 10 minuti, un quarto d'ora? Ma che fosse un'ora? Un'ora andare, cioè, non è la fine del mondo, capite? Quindi bisogna semplicemente valutare e ponderare. Valutare e ponderare. Perché il bene, vi ripeto, supremo della Chiesa è la salvezza delle anime. E quando il Signore dice: amerai il prossimo tuo come te stesso, c'è un amore sano e santo di sé che tutti dobbiamo avere e che è il primo e che è il più importante. Qual è questo amore sano e santo di sé? L'amore della propria anima. Noi dobbiamo avere a cuore la nostra anima, che sia curata, che sia nutrita bene, non da cose sciatte, o da cose che ci fanno perdere la fede, o da parole vuote o contrarie ai sani principi. Ecco, ma conformi a ciò che nostro Signore vuole, ci ha insegnato e ci ha rivelato. Bene, mi sembra che il tempo a nostra disposizione sia scaduto o stia per scadere. Io vi saluto tutti e ciascuno e vi ringrazio per avermi ascoltato, e vi auguro ogni bene e ogni grazia nel Signore. Vi benedico tutti, vi do appuntamento se riterrete alla prossima settimana e vi saluto con il saluto a noi caro Ave Maria.